GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'Aula della Camera sta discutendo la proposta di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia. Si va verso la reintroduzione delle province. Resta non potabile l'acqua di rubinetto di due comuni delle valli del Natisone, anche se non ci sono più tracce di idrocarburi. Lo hanno stabilito le analisi della CAFC dopo l'allarme lanciato dai residenti. Il lungo percorso per ottenere la cittadinanza italiana, l'analisi di un docente di diritto costituzionale, la storia di due donne che vivono da molti anni a Trieste. La Guardia di Finanza di Palmanova confisca 3 tonnellate di olio lubrificante per automezzi, 2 i denunciati. L'olio andrà in uso ai mezzi delle Fiamme Gialle e a quelli della Protezione Civile regionale. 2 nuove navi da crociera verranno costruite da Fincantieri e Viking. Consegna nel 2030, ulteriori 4 navi in opzione, ma di piccole dimensioni, con consegne previste tra il 2031 e il 2032. Dagli scavi archeologici italo-sloveni nella grotta Tinayama emergono nuove testimonianze del Carso fino a 9.000 anni fa, trovato anche un pugnale in rame e una collana di ostriche. Vetrina d'eccellenza a Chicago per i produttori di vino del Friuli Venezia Giulia, presenti a Vin Italy International. Strette nuove alleanze per promuovere l'enogastronomia della nostra terra. Al via i lavori lungo la strada regionale 466 di Piancavallo, termineranno secondo le previsioni fra 1 mese e mezzo in tempo per la stagione sciistica. Ancora un cordiale buongiorno da Francesca Terranova e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In questi minuti alla Camera le dichiarazioni di voto sulla reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia. Si va verso l'approvazione. Alla Camera dei Deputati si va verso l'approvazione della proposta di legge costituzionale che modifica lo statuto della nostra regione per reintrodurre gli enti di area vasta, ovvero le province. Dopo il respingimento di tutti gli emendamenti dell'opposizione e l'approvazione dei 10 articoli, ora i gruppi parlamentari stanno esprimendo le dichiarazioni di voto sul testo. Testo che dovrà essere approvato dal Senato e quindi essere riesaminato in seconda lettura da Camera e Senato, essendo una legge costituzionale. Ma proprio sulla costituzionalità della proposta di legge ha eccepito i 5 Stelle Colucci per l'elezione diretta dell'ente intermedio, citando la legge del Rio e sentenze della Corte Costituzionale, e evidenziando che il testo è stato modificato rispetto a quello licenziato dal Consiglio regionale in commissione parlamentare. L'elezione diretta, secondo la DEM Deborah Serracchiani, comporterà costi aggiuntivi per i cittadini. La deputata ha sottolineato come il testo non definisca le funzioni di questi enti e crea quindi dei contenitori vuoti. Ciò, aggiunge, comporterà il rischio di sovrapposizione di compiti con altri enti. Per lo perfido di Fratelli d'Italia, la politica deve riconoscere i propri errori, cioè la soppressione delle province avvenuta nel 2016, la cui reintroduzione i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno votato in quanto era annunciata nella campagna elettorale. Un organo, aggiunto lo perfido, che va eletto direttamente, così il cittadino sa a chi deve rivolgersi. Anche la forzista De Monte ritiene che dare voce ai cittadini attraverso l'elezione diretta sia un valore e necessario, dice, ritornare a quegli enti che sono vicini ai cittadini. Ettore Rosato, per Azione, annunciando il voto favorevole, ha espresso il profondo rispetto del percorso che ha fatto il Friuli Venezia Giulia per la reintroduzione dell'ente intermedio, sottolineando anche che la soppressione ha creato delle disfunzioni, creando enti senza autorevolezza perché non eletti e con meno risorse. Alleanza Verdi Sinistra ha annunciato intanto l'astensione. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. La regione gioca d'anticipo sui danni causati dal maltempo e stanzia 10 milioni di euro in incentivi per il ricorso alle assicurazioni. Proteggere i beni dei cittadini dai danni degli eventi climatici ed evitare continui ricorsi a spese di copertura pubbliche. Nei giorni della nuova alluvione in Emilia-Romagna, la regione Friuli Venezia Giulia stanzia 10 milioni di euro per incentivare il ricorso ad assicurazioni contro i danni provocati dal maltempo. 5 milioni e mezzo il contributo per il 2024, 4 milioni e mezzo invece quello per il prossimo anno. Il presidente Fedriga ha sottolineato come la regione ancora una volta sia capofila a livello nazionale. L'assessore Calla sanitari, andando nel dettaglio della norma, articolo 11,23 della legge regionale 16 del 2023, ha spiegato che si può arrivare ad un massimo del 50% del rimborso della spesa sostenuta da persone fisiche per unità immobiliari a uso residenziale. Non parliamo soltanto di prima casa, ma su ogni immobile di proprietà da parte anche di chi ha soltanto diritti sulla casa. Dal 6 novembre sarà pubblicato il bando che darà 30 giorni di tempo per accedervi, ma il rimborso sarà riconosciuto anche a chi nel corso dell'anno ha già attivato un'assicurazione. Entro 60 giorni verrà liquidato il rimborso non cumulabile con altre detrazioni fiscali. I parametri di valutazione saranno tre: l'ISEE con l'assegnazione di 50 punti per redditi fino a 35.000 euro, l'intensità del contributo che può andare dal 30 al 50% con un'assegnazione massima di 30 punti e l'importo della franchigia fino a 20 punti. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Non più tracce di idrocarburi nell'acqua di rubinetto di due comuni delle valli del Natisone, lo hanno stabilito le analisi della CAFC dopo l'allarme lanciato dai residenti, ma resta il divieto di utilizzo dell'acqua potabile. Da una settimana non è più potabile l'acqua in diverse frazioni di Savogna e Pulfero, due comuni delle valli del Natisone. A lanciare l'allarme sono stati i residenti stessi, che avevano notato un odore sgradevole e una colorazione leggermente alterata dell'acqua di rubinetto. Le analisi disposte da CAFC, la società di gestione dell'acquedotto, hanno trovato tracce di idrocarburi. CAFC ha immediatamente eseguito la pulizia delle vasche a servizio delle abitazioni delle località interessate dal problema e gli ultimi test hanno dato esito negativo. Non c'è più traccia di idrocarburi, insomma. Il problema è che in alcune frazioni, come Ieronizza, l'odore si sente ancora chiaramente, come abbiamo potuto testimoniare di persona. La decisione di revocare il divieto di utilizzo di acqua potabile a fini alimentari spetta ai sindaci su indicazione dell'azienda sanitaria. In ogni caso, i residenti non se la sentirebbero ancora oggi di tornare a berla e si approvvigionano ai sacchi da 3 litri messi a disposizione dalla CAFC, che nel frattempo sta indagando sulle possibili cause di un fenomeno alquanto insolito. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In questi mesi in Italia è aspro il dibattito politico in corso sulla cittadinanza italiana. Ius soli, ius culture, ius sanguinis, ius scuole. Nel programma della mattina, Buongiorno Regione, abbiamo chiarito come si ottiene la cittadinanza e le procedure per richiederla con un professore di diritto costituzionale, Pietro Faraguna, dell'Università di Trieste. Un test di lingua, un reddito minimo, un contributo di 250 euro e diversi costi burocratici. Per chi non nasce cittadino italiano ma ha maturato i requisiti per diventarlo, ad esempio quello di risiedere in Italia da 10 anni o 5 se cittadino europeo, il processo di richiesta è lungo e impegnativo. Soprattutto per i casi di acquisizione della cittadinanza successiva c'è un procedimento amministrativo, che diciamo anche per questioni operative è abbastanza complicato, che ha tempi anche abbastanza lunghi rispetto ad altri procedimenti amministrativi, diciamo i tempi sono di 24 mesi a cui si possono aggiungere altri 12 mesi. Molti stranieri residenti da anni sul territorio restano scoraggiati dalla lunghezza del procedimento, pur conoscendo i diritti che comporta avere la cittadinanza. Rispetto al passato in cui la cittadinanza era tutto, oggi non è così. Se si ha uno status di soggiorno legale in Italia si possono fare comunque un sacco di cose, si ha diritto alla maggior parte delle prestazioni sociali. Quello che totalmente cambia è il diritto di voto e il fatto che la cittadinanza non scade. Allo stesso tempo l'Italia è il paese dell'Unione Europea che ha il numero più alto di nuovi cittadini. Certamente l'Italia è un paese in cui ci sono tanti non cittadini diciamo soggiornanti nel paese. Dopodiché c'è questo fenomeno in enorme aumento negli ultimi anni, per cui in virtù del fatto che si diventa cittadini perché i propri genitori sono cittadini e così via, c'è un enorme aumento negli ultimi anni delle richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte dei diciamo parenti degli emigranti che, come ben sappiamo, nel passato sono stati moltissimi anche dei nostri territori. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso sentiamo la storia di due donne che vivono a Trieste da molti anni e che ci hanno raccontato il loro lungo percorso per ottenere la cittadinanza italiana. Aveva appena 7 anni quando, con la mamma, lasciò la Colombia per raggiungere il papà, che già lavorava in Italia. Karen Cicque, 30 anni, ora mamma, a sua volta di 2 bimbi di 4-8 anni, tuttora cittadina colombiana sulla carta, ma il paese natale è solo per lei un lontano ricordo. Sono stata un'unica volta circa 14 anni fa. come turista. Da 23 anni rinnova il permesso di soggiorno, desidera ottenere la cittadinanza italiana per lei e i suoi bambini. Ci ha provato una volta, poco dopo la pandemia, ma la domanda le è stata respinta. Per fare la richiesta della cittadinanza occorre avere un reddito abbastanza alto, soprattutto se hai figli. Ero in gravidanza, è nato il bambino e quindi ero in maternità e il reddito non bastava a coprire e quindi mi è stata negata. Rifarà domanda, perché? Vorrei riprovarci, soprattutto quando chiedo ai miei figli di dove sei, loro dicono noi siamo triestini. Diversa è la situazione di Erin McKinney, americana di New Orleans, fotografa professionista a Trieste da 10 anni. Ha il permesso di soggiorno illimitato, ha presentato la richiesta di cittadinanza italiana e sta aspettando la risposta. È sposata con un uomo italiano. Cambia il processo, perché per quelli che sono sposati con un italiano possono chiedere la cittadinanza dopo 2 anni. Statunitense, un passaporto forte che comunque manterrebbe, ma risiedendo qui le conviene avere anche la cittadinanza italiana. Perché? Quando vado in Slovenia, che è 10 minuti di qua, siamo sul confine, devo avere sempre il mio passaporto e il mio permesso di soggiorno. Ovviamente non è che vado in giro sempre con quello e qualche volta dimentico e già avevo un po' di problemi con questo. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste e Udine 19 gradi, a Gorizia 18 gradi e 5 decimi, a Pordenone 17,5, a Tolmezzo 13 gradi, a Tarvisio 12 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 11,5, a Piancavallo 10,5, sul Monte Zoncolan 8 gradi, sul Monte Lussari 7 gradi e 5 decimi, a Grado 17,5, a Lignano 16 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nelle prossime ore il cielo è coperto, saranno probabili piogge deboli su pianura e costa, in genere moderate sulla zona montana, localmente abbondanti sulle prealpi carniche. Dal pomeriggio sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Domani il cielo sarà in prevalenza coperto, nuvoloso sulla costa, saranno possibili piogge generalmente deboli moderate sulla fascia costiera. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata in attenuazione verso sera. Fincantieri e Viking hanno annunciato di aver firmato i contratti per la costruzione di 2 nuove navi da crociera che si baseranno sulle caratteristiche delle precedenti navi già realizzate nei propri stabilimenti italiani per questo armatore. Le navi saranno consegnate nel 2030. Fincantieri e Viking hanno inoltre raggiunto un'intesa per ulteriori 4 navi in opzione con consegne previste tra il 2031 e il 2032. Si tratta di navi da crociera del segmento di piccole dimensioni, cioè con una stazione lorda di circa 54.300 tonnellate, in grado di ospitare 998 passeggeri in 499 cabine. Le nuove unità saranno costruite nel rispetto delle norme ambientali e dei regolamenti di navigazione più recenti e saranno equipaggiate con i più avanzati sistemi di sicurezza. Vanteranno inoltre innovazioni all'avanguardia, sviluppate grazie alla costante collaborazione tra Fincantieri e Viking per lo sviluppo di carburanti green e di sistemi di generazione di energia sostenibili a 0 emissioni. 3 le occasioni che si presentano oggi in regione per chi cerca lavoro. All'Università di Udine 10 aziende incontrano studenti e laureati del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche per offrire un centinaio di posti di lavoro. Si inizia alle 13.30. A Gorizia, nella Sala Dora Bassi, è iniziato a mezzogiorno il primo di 14 appuntamenti di orientamento alla scelta del lavoro per capire ad esempio come prepararsi ad un colloquio o come funziona il portale europeo dei giovani. A San Vito al Tagliamento è iniziata da poche ore la selezione dei 500 candidati che si sono presentati per 120 posti di lavoro offerti dalle aziende del consorzio industriale Ponte Rosso. Sentiamo. 120 posti di lavoro per 25 aziende nelle aree produzione, logistica, manutenzione, tecnica e impiegatizia. Al consorzio industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, il Recruiting Day organizzato dalla Regione. Gianni Fratte, Direzione Centrale Lavoro. Abbiamo raccolto oltre 500 curriculum, ne abbiamo selezionate oggi circa poco meno di 250 persone che sono oggi convocate e avranno i colloqui direttamente con le aziende. C'è una grande fame di lavoratori. Noi abbiamo stimato che nei prossimi 4-5 anni in Regione Friuli Venezia Giulia ci sarà un'esigenza occupazionale di circa 100.000 persone con competenze. C'è chi ha già un impiego e vuole cambiare, chi è senza lavoro e cerca occupazione. Che cosa cerca? Qualsiasi lavoro, ormai alla mia età basta trovare lavoro perché quello è l'importante. Sto cercando un lavoro del settore impiegatizio. Da quanto è disoccupata? Da quest'estate. Dopo aver fatto la stagione sto cercando un nuovo impiego. Il consorzio impiega 3.500 addetti, ma le aziende continuano a cercare. Sergio Barella è presidente del consorzio Ponte Rosso Tagliamento. Le esigenze vanno, le esigenze di operai, quindi ruoli manifatturieri, però anche esigenze tecniche, di competenze tecniche, di ruoli quindi impiegatizi. Quindi effettivamente è variegata nelle varie industrie, quindi in grado sicuramente di offrire anche delle opportunità importanti per chi è interessato, per cercare di ridurre quel mismatch che c'è, questo gap fra domanda e offerta, che è ancora uno dei grandi problemi del nostro paese. Prossimi appuntamenti di selezione personale in Friuli Occidentale alla fiera Punto d'Incontro e il 26 novembre al centro di catalogazione dei Magredi di San Quirino. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Palmanova ha fermato una cisterna proveniente dalla Romania che trasportava un ingente carico di olio lubrificante destinato a una società campana. Le successive verifiche hanno accertato che il prodotto, circa 3 tonnellate di peso, era stato sottratto al pagamento delle imposte. Per questo è stato confiscato e sono state denunciate 2 persone, l'autista rumeno del mezzo e il committente italiano. In accordo con la Procura della Repubblica, una tonnellata d'olio lubrificante è stato assegnato alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia perché possa utilizzarlo per i propri fini istituzionali. L'assegnazione consentirà un notevole risparmio nei costi di gestione del parco auto della Protezione Civile. Le restanti 2 tonnellate di olio restano ai mezzi della Guardia di Finanza. E ci sono stati 3 incidenti stradali questa mattina che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco nella provincia di Udine. Alle 10 un'auto si è scontrata con un furgone a Pantianicco sulla strada provinciale 52. Ferito uno dei 2 conducenti, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. Alle 13 un incidente a Palazzolo dello Stella sulla statale 14 vicino all'azienda Isola Augusta, 3 auto coinvolte di cui una finita in un fosso. Una persona ha riportato un trauma toracico ed è stata ritrasportata in codice giallo. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Latisana. Da mezzogiorno un terzo incidente sull'autostrada A23 al casello di Ugovizze tiene impegnata la squadra dei vigili di Tarvisio. I triestini hanno risposto con generosità all'appello lanciato un mese fa dalla Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Hrovatin per raccogliere fondi e beni di prima necessità contro il freddo in arrivo, come sacchi a pelo, giacconi e scarpe. Ne sono già stati distribuiti decine a chi non ha un tetto. Con le donazioni in denaro la Fondazione ha acquistato e subito inviato al centro diurno di via Udine 80 sacchi a pelo e 100 teli salvavita. Il centro di raccolta Elide ha ricevuto una notevole quantità di sacchi a pelo e giacconi, ha dichiarato la presidente della fondazione Daniela Schifani Corfini. Ci sono tante persone che non condividono la noncuranza dilagante verso i migranti, ma che vedono la sofferenza che ognuno di loro porta dentro di sé e vogliono aiutare tanti ragazzi infreddoliti che ormai fanno parte dello sfondo di Trieste. La raccolta fondi continua tramite IBAN e PayPal. La donazione di indumenti è sempre ben accetta nel centro di raccolta di via Val di Rivo. Sono 60 i progetti in regione nati dal 2017 che prevedono un'importante collaborazione tra pubblico e privato in ambito sociale, progetti virtuosi che rispondono alle esigenze del territorio e che grazie ad una norma introdotta 6 anni fa permettono l'assegnazione alle cooperative locali evitando la logica del massimo ribasso con appalto. Se ne è discusso a Trieste. Il messaggio lo aveva lanciato quest'estate a Trieste Papa Francesco. Allenate la partecipazione, aveva detto. E partecipare, coprogrammare, coprogettare sono le parole d'ordine dell'incontro promosso da Lega Coop e Regione Friuli Venezia Giulia che si sta tenendo alla Sala Generale di Palazzo del Ferdinandeo. Con il nuovo codice del terzo settore introdotto nel 2017 c'è stata la svolta nelle relazioni tra enti pubblici e cooperative sociali, la possibilità di coprogettare risposte flessibili per il territorio in ambito sociale, culturale e turistico. Un esempio concreto si si vede nella gestione degli anziani, e ce ne parla Paola Ricchiuti, cooperativa Itaca, responsabile proprio della progettazione. Perché con gli anziani, per esempio, che cosa è stato fatto nel Pordenonese a Saccile? A Saccile appunto c'è stata questa coprogettazione promossa dall'ambito sociale Livenza Cansiglio Cavallo, e ha promosso proprio un piano della domiciliarità che riguarda tutti gli anziani e tutta la comunità. E quindi un esempio concreto: si sono sviluppate nuove progettualità e una filiera di servizi, ad esempio oltre ai centri diurni, al servizio domiciliare, i centri diurni che sono per non autosufficienti, si sono sviluppati grazie alla mobilitazione delle risorse comunitarie e delle associazioni dei territori anche dei centri sociali per gli anziani più attivi del territorio. È il territorio che conosce le proprie esigenze, ciò di cui ha bisogno. Sì, certo, infatti una delle azioni proposte è proprio questo sviluppo di comunità, perché la comunità che ha il motore e si attiva con le proprie risorse proprio per generare risposte ai problemi della comunità stessa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Una collana composta da ostriche forate, realizzata 8.000 anni fa, e un pugnale in rame perfettamente conservati. Sono alcune delle incredibili scoperte emerse solo recentemente grazie agli scavi eseguiti nella grotta Tinayama a Rupin Piccolo, sul Carso triestino, e si fa luce su come si viveva in queste terre da 9.000 a 4.000 anni fa. Nella sede della soprintendenza a Trieste si è appena conclusa la presentazione di queste scoperte archeologiche condotte dall'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con l'Istituto di Fisica Abdus Salam, con ricercatori in Slovenia e con l'Università di Siena. Ci dice di più il professore di Ca' Foscari Federico Bernardini, direttore di scavo. Era ormai da decenni che non si intraprendeva lo scavo di una grotta preistorica nella zona del Carso. Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto di ricerca proprio perché oggi ci sono delle metodologie diverse che consentono di fare un lavoro più preciso. E quindi di fatto abbiamo scelto una grotta che sembrava promettente, con l'obiettivo di cercare di scavarla nella maniera più rigorosa possibile, per cercare di chiarire i numerosi punti oscuri che ancora ci sono relativi allo sviluppo culturale dell'area carsica. Che idea ci siamo fatti di questi popoli preistorici del Carso? La grotta ha ospitato gli ultimi gruppi di cacciatori raccoglitori. Abbiamo poi tracce che documentano più o meno alla fine del VI millennio a.C. l'arrivo dei primi gruppi di agricoltori e pastori durante il Neolitico. E poi abbiamo una serie di materiali che invece di fatto documentano l'inizio dell'età del rame. E quest'anno siamo arrivati proprio su questi livelli e abbiamo avuto la fortuna di trovare in realtà un piccolo manufatto, un piccolo pugnale in rame, ma a livello archeologico è molto interessante, perché si tratta di reperti decisamente rari. Al tempo il metallo era comunque molto prezioso, proprio perché erano così rari e preziosi in genere si rinvengono soltanto in contesti funerari, cioè erano corredi tombali. Quindi la scoperta di questo pugnale, insomma, ci pone anche una serie di interrogativi su come la grotta fosse usata a quel tempo, perché noi l'abbiamo trovato in un livello non associato a tracce che possono suggerire la presenza di una sepoltura. Iniziano oggi i lavori di manutenzione straordinaria della strada che porta a Piancavallo per il rinnovo del manto stradale della segnaletica. In un tratto lungo 10 chilometri la Regione ha stanziato 1 milione di euro. Il cantiere dovrebbe chiudere tra 45 giorni, il 2 dicembre, in tempo per l'avvio della stagione invernale sulle nevi di Piancavallo, assicura l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Mirante. Durante i lavori il traffico potrà scorrere con il senso unico di marcia alternato. Chiusa con successo a Chicago Vinitaly International, la fiera che ha promosso l'intero Friuli Venezia Giulia. Il mercato statunitense conferma grandi opportunità per le nostre eccellenze enogastronomiche, in particolare per i vini bianchi. C'era anche il Friuli Venezia Giulia tra le 6 regioni d'Italia che hanno alzato la loro bandiera sul quartiere fieristico del Navy Pier di Chicago per l'esordio di Vinitaly USA, il primo format espositivo del vino italiano organizzato da Verona Fiere oltreoceano. Presenti oltre 230 aziende italiane, 5 collettive con più di 1650 etichette in degustazione e un programma di 30 eventi con più di 1500 operatori professionali. Secondo l'Osservatorio di Vinitaly, parlano italiano circa 3 bottiglie importate negli Stati Uniti su 10, con ordini del bel paese in crescita del 4%, per un corrispettivo di 1,5 miliardi di dollari. Non poteva mancare a Chicago il mondo del vino friulano, guidato dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier. Per noi il mercato degli Stati Uniti è un mercato estremamente interessante, ma è anche un mercato del quale conosciamo relativamente poco come sistema regionale, che non vuol dire che le singole imprese non siano già presenti, ma come sistema avevamo la necessità di poter usufruire proprio di una modalità organizzata all'interno della quale proporre le nostre produzioni, i nostri prodotti al sistema dei buyer statunitensi. È stata l'occasione poi per la presentazione della destinazione turistica ed enogastronomica del Friuli Venezia Giulia, seguita dalla degustazione di piatti e prodotti regionali preparati dallo chef Tiziano Gortan, un conterraneo che vive in Colorado. Tutto questo in abbinamento, ovviamente, ai vini del Friuli Venezia Giulia. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Conservatorio di Trieste, in programma alle 18.30, il concerto dell'orchestra jazz del Tartini, Night and Day, la musica classica incontra il jazz. L'orchestra, diretta dal maestro Mirko Rubegni, propone un programma in cui Duke Ellington dialoga con Grieg e Tchaikovsky, e verranno proposti anche altri successi dell'era dello swing o del periodo successivo. Per concludere il programma con il brano di Cole Porter che dà il titolo al concerto, Night and Day. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Laura Srasini, per la parte tecnica, in regia Viola Romanese, Marco Ferrito e Mauro Cumin. Da parte di Francesca Terranova ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.